Milano, Firenze, Venezia, la dolce vita, la bella vita. Roma, Milano, Firenze, Venezia, la dolce vita, la bella vita. Roma, Milano, Firenze, Venezia, la dolce vita, la bella vita. Nel bel paese di mafia e di pizza, nella fontana con dentro una pazza. La dolce vita è bella vita. La dolce vita è bella vita. La dolce vita non farla aspettare.